Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 35 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e oggi, mercoledì 14 giugno dell'anno politico 2017, sono qua mio malgrado a dire una cosa che non mi piace molto pronunciare questa frase. Però in questo caso mi trovo proprio costretto a farlo e la frase in questione è «Ve lo avevo detto». Perché sì, ve lo avevo detto tempo fa in un altro appuntamento con il Vagabondo oppure in più di uno. I social network sono, come dire, un'arena, sono un contenitore di odio, di facile giudizio, di persone che si sentono in grado di buttare giudizi e opinioni a destra e a manca parlando di qualsiasi cosa in qualsiasi caso. E purtroppo un evento tragico che è accorso in questi giorni ha riscatenato di nuovo l'ondata di veleni, di cattiverie gratuite sputate lì solo perché si è nella condizione di essere un leone da tastiera, quindi ben protetto da un anonimato che poi in realtà è molto fragile, vale a dire, che ne so, perché il signor Mario Rossi comune su internet si chiama XY2 e sotto questo XY2 si nasconde per fare le sue invettive di turno, stavolta a quello, stavolta a quell'altro, e una volta è al politico, e una volta è allo sportivo, e una volta è a persone comuni che attraversano tragedie che chiaramente sono tragedie enormi e sono tragedie che non si calcolano da questo punto di vista. Di conseguenza è un haters è chiaramente il termine usato per definire queste persone, come dice magari invece Enrico Mentana, gli webeti, il suo cognato termine che usa per definire le persone che nascondendosi dietro una tastiera si ergono a paladini del sapere tutto e del giudicare tutto, con però una cattiveria ed una dose di cinismo veramente, veramente spropositata. E purtroppo in quest'epoca che viviamo, l'essere social, l'essere su internet, l'essere protetti, come dicevamo, da questa falsa protezione, che poi in realtà è una falsa protezione, ci permette di sfogare i nostri rancori più repressi, le nostre gelosie anche magari nei confronti proprio di persone che non c'entrano niente, e quindi ci sfoghiamo contro una terza persona utilizzando il mezzo di internet. E purtroppo è una cosa molto comune e molto brutta, e quello per cui vi sto parlando di questa cosa anche oggi, il fatto scatenante è purtroppo quel fatto gravissimo, tristissimo, che non trovo nemmeno parole per citarlo, perché alla fine è un fatto di cronaca e purtroppo non è nemmeno il primo e purtroppo molto probabilmente non sarà nemmeno l'ultimo. Però cosa è successo? Insomma, è una notizia passata a carattere nazionale. Io ci sono rimasto anche molto sorpreso quando addirittura sulla Gazzetta dello Sport il giorno seguente, in quelle due o tre pagine che il giornale dedica a notizie che non sono di sport, avevano dedicato un lungo articolo a questa vicenda che, torno a ripetere, è una vicenda tristissima, è un dramma familiare enorme che non è proprio nelle mie intenzioni cercare di dipanare. Però qual è il fatto in questione? Il fatto in questione è uno degli ennesimi, purtroppo, casi di amnesia che può capitare a una persona, e purtroppo però anche in questo caso questa amnesia ha portato al decesso di una piccola bambina. Ecco, chiaramente il dramma familiare è enorme e rispetto massimo per chi lo sta vivendo, per i familiari, i genitori, i parenti stretti, gli amici più stretti, rispetto massimo, proprio non ci sono altre parole da dire secondo il mio punto di vista. E invece purtroppo gli haters o gli webeti, come abbiamo detto prima, si sono scatenati con una violenza ed una ferocia allucinante. Io già c'ero rimasto male del fatto che una notizia così, che è tragica ma comunque resta una notizia di cronaca, fosse data un risalto mediatico enorme a livello nazionale, e questo risalto mediatico enorme a livello nazionale ha prodotto poi lo scatenarsi di questi personaggi ignobili che, servendosi, ecco, di questo falso anonimato, hanno iniziato a tartassare i genitori tramite i profili social che avevano, offendendoli nelle maniere più indicibili e creando così chiaramente anche una situazione di disagio ulteriore rispetto a quello che già, immaginiamoci, vivesse la famiglia in quel momento molto triste. Quindi è stata una cosa molto brutta da veder succedere, perché effettivamente si va ancora a minare con questo modo di fare gratuito, proprio senza senso, si va ancora a minare ancora di più un profilo probabilmente psicologico che in quel momento è molto debole, che in quel momento è molto fragile, e quindi una persona magari che invece avrebbe un bisogno disperato di un aiuto, un sostegno, una vicinanza particolare da parte della società, si trova ad essere offesa, accusata, ingiustamente bistrattata, tirata in mezzo a cose molto grosse, molto difficili anche da superare, e di conseguenza la cattiveria social riprende forma, riprende motore, riprende benzina e si alimenta delle disgrazie altrui, perché, che ne so, questa cosa che è successa in Toscana, magari una persona, che ne so, pugliese, per dire una regione a caso, vale a dire, ma è per dire una persona che chiaramente non conosce i protagonisti dei fatti, non conosce le dinamiche dei fatti, non conosce le dinamiche della famiglia a cui è occorso questa tragedia immane, e si permette di sparare sentenze, sputare veleno, addirittura incitare al suicidio le persone coinvolte in una tragedia già grande di per sé. E come si fa? Tutto questo odio che viene fuori, ma se ce l'avete dentro perché la vostra vita è misera, è povera e non vi riesce di condurre una vita decente in qualche modo, vi hanno dato internet per diventare webeti, per diventare quelli che appena vedono una tragedia, appena vedono un qualcuno che in quel momento appare un po' più debole, scagliarsi addosso con parole indicibili, con parole irripetibili. Per quale motivo? Ma a che scopo? Che piacere ci avete nel fare questo? Cioè, è una cosa, è incredibile. E fortunatamente poi, notizia del giorno dopo, subito chi si occupa delle indagini, perché chiaramente un caso di questo tipo è gravissimo e sono aperte le indagini, però al momento in cui gli webeti si presentano e tartassano in maniera violenta, persistente e continuativa i protagonisti di una storia già così tragica e triste, pare che la magistratura avvierà un procedimento di inchiesta per cercare di risalire a quanti hanno offeso magari i protagonisti di questa storia, minandone ancora di più l'incolumità propria, perché effettivamente immaginiamoci una scena incredibile, vale a dire una madre che è in qualche modo responsabile della morte del proprio figlio, per quanto sia colposa la cosa, però lo è, e chiaramente questo è un rimorso grandissimo, enorme, che questa persona si porterà dentro per tutta la vita, che niente e niente mai riuscirà a cancellare dal suo cuore un fatto così gravissimo. E non, quella è già una prigione, è già una croce enorme che questa persona si dovrà portare per tutta la vita, un fardello pesantissimo per tutta la vita sulle spalle. E arriva il webete di turno che ci dà alle gambe, ci dà ai ginocchi un proverbio che mi ricordo sentivo dire dai miei nonni quando ero bambino. Il proverbio diceva: agli zoppi pedate sugli stinchi, e in effetti fanno così, appena vedono un qualcuno che potrebbe essere ipoteticamente più debole, più in difficoltà, cosa fanno? Gli vanno addosso con una violenza gratuita, incredibile, pur non conoscendo, ripetiamo, i fatti, non conoscendo le persone, non conoscendo assolutamente niente. Queste persone, questi Webeti, cari Webeti, ma credete di essere cosa? Un dio? Credete di essere coloro che hanno la scienza infusa su tutto e per tutto e che ne hanno per tutti? Beh, siamo arrivati in fondo a questa puntata del Vagabondo e come sempre è arrivato anche il momento del Cafone Vagabondo, il nostro consueto piccolo viaggio alla scoperta di vizi e virtù della nostra società, i miei per primo, per dire quelle cose politicamente scorrette da fare ma che tutti in qualche modo facciamo, chi più chi meno. E il Cafone Vagabondo di oggi chi è? Il Cafone Vagabondo di oggi è colui che appena vede qualcuno che è a passeggio magari con il proprio cane non resiste, appena vede un cane deve per forza andare incontro e cercare in qualche modo la considerazione del cane e quindi si presenta: oh bellino, e giù con la mano sulla testa, ma si sa benissimo che al cane non piace molto quando dall'alto una mano gli si va a parare sulla testa, perché lo vede come un pericolo e quindi c'è il rischio che morda. E poi niente, magari questo cane ha paura e quindi un po' si ritira, un po' sta sulle sue, un po' un cane alla fine è un essere vivente, ci avrà una coscienza, seppur minima ce l'avrà, e magari in quel giorno non c'ha proprio voglia di subirsi le vostre carezze e i vostri urletti strazianti di complimenti nei suoi confronti, e quindi si ritira un po' e voi niente, insistete, e il padrone ve lo dice anche: ma guardi, questo cane ha un po' di paura, se non la conosce non è che si fa accarezzare, e niente da fare, non ci crede. Il Cafone Vagabondo di oggi cosa fa? Vuole dimostrare al cane, al padrone e al mondo intero che lui con i cani ci sa proprio fare, ha proprio deciso che lo accarezzerà, e quindi riparte all'arrembaggio con la sua mano alta e cerca di nuovo disperatamente di accarezzare il cane niente, ancora si nasconde, e tu con un tono un po' già scocciato e glielo fai capire: ma guardi, gliel'ho detto, il cane ha paura, non si fa accarezzare, ma niente da fare. Il Cafone Vagabondo in quel caso è addirittura magari con un suo amico e vuole dimostrare soprattutto al suo amico che lui è in grado di accarezzare un cane che in realtà non ha nessuna voglia di farlo, e ci riprova di nuovo, al che il cane a un certo punto prende la parola e inizia magari a ringhiare. Che fa? Morde? Sì, se gli rompi le scatole morde anche te. Grazie a tutti cari amici per avermi ascoltato fino a qua. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, come sempre sulle frequenze di Radio Big World, con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Nel frattempo, poche carezze ai cani e siate saggi!